Dolci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Citte Bagut, un milione di camicie, di Alessandra Scaglioni. L'azienda di cui parliamo oggi si trova ad Arcore. Produce camicie con proprio marchio e per grandi stilisti e vende in tutto il mondo ogni anno più di un milione di capi. Alla guida Antonio Gavazzeni, che assieme al cugino Andrea rappresenta la terza generazione della famiglia. L'azienda Bagut io rappresento in questo caso la terza generazione insieme a mio cugino Andrea. La storia di Bagutta è molto semplice e veloce. L'azienda nasce nel 39, esattamente nel 39 nasce l'azienda CIT, Confezioni Italiane Tessere, fondata dal cavalier Lombardi e dal cavalier Vittorio Polli, ovvero mio zio in seconda, che è stato quindi rappresentato la prima generazione. In quegli anni ovviamente Bagutta non esisteva, in quanto avevamo altri marchi. Il nostro marchio CIT, producevamo essenzialmente camicie da uomo ed intimo, distribuito in tutta Italia e anche molto molto all'estero. Negli anni 70 entra in azienda mio padre Pino, che tuttora sovrintende ancora al lavoro mio e di mio cugino, e negli anni 75-77, con la nascita degli stilisti del prêt-à-porter, incontriamo il signor Giorgio Armani e da lì nasce la collezione Bagutta, in quanto in quegli anni lì la Bagutta fu disegnata dal signor Giorgio Armani. E in quegli anni noi iniziamo anche a produrre come CIT le collezioni di camiceria del signor Armani in tutte le linee. Tuttora oggi noi produciamo le camicie come fornitori. La produzione si sviluppa e si diversifica e va all'estero. L'azienda prosegue la produzione per terzi e affianca al lavoro realizzato per noti stilisti la produzione con marchio proprio, sviluppando linee di prodotto diverse. In tutti questi anni poi Bagutta si è sviluppato ulteriormente, andando a vendere in Italia e molto all'estero collezioni da uomo di camicie, di camiceria. Quando parlo di camiceria intendo sempre una collezione a 360 gradi, dalla camicia prettamente classica alle camicie estremamente particolari, fashion, attraverso tutti i passaggi, camicie lavate, eccetera, eccetera. Per quanto concerne la donna, invece, qui abbiamo sviluppato una sorta di collezione di prêt-à-porter, la collezione un po' più completa. La nostra azienda è divisa in due, diciamo, quello che facciamo chiamiamolo conto terzi e quello che poi sviluppiamo direttamente attraverso i nostri marchi, con la creazione delle collezioni, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero. All'estero l'azienda va da subito, sia sui mercati europei che su quelli asiatici. Per quanto concerne Bagutta, fin dagli inizi, dagli anni 75, abbiamo avuto un discreto successo all'estero, soprattutto nei paesi asiatici. Mi viene in mente istintivamente il Giappone, la Corea, Taiwan, paesi dove Bagutta è molto ben recepita e molto ben conosciuta. Per quanto concerne un'azienda come la nostra, medio-piccola, andare all'estero è più difficile rispetto a quello che possono avere le grandi aziende, che hanno più mezzi, più possibilità di apertura negozi, fare comunicazione, marketing, eccetera, eccetera. Detto questo, noi abbiamo sviluppato l'estero sempre improntando le nostre collezioni sulla grande creatività, la grande qualità e il grande servizio che oggi i nostri clienti richiedono per poter appunto andare a approcciare l'estero. Il servizio è importante ovunque, anche in Italia, se è chiaro, però all'estero è di basilare importanza. Lavorare con l'estero oggi, oltre che un discorso prettamente di collezione, che deve piacere ovviamente, è di basilare importanza a dare un servizio, strutturarsi per lavorare con l'estero. Per approcciare i mercati internazionali, una delle strade percorse è quella di fare rete per rafforzare il potenziale di aziende medie o piccole. Indipendentemente dall'azienda che seguo, sono presidente di Ente Moda Italia, che Ente Moda Italia appartiene al 50% al Sistema Moda Italia, il rimanente 50% al Centro Paramoda di Firenze. E questo Ente Moda Italia appunto si propone di organizzare e portare le medio-piccole aziende italiane all'estero attraverso la partecipazione a fiere del nostro settore in determinati paesi. Tutte le aziende che bene o male portiamo mediamente sono piccole aziende, medio-piccole aziende, che da sole non avrebbero la forza di andare a presentarsi su questi mercati. Invece, supportati da Ente Moda Italia, hanno la possibilità di presentarsi su questi mercati attraverso appunto la partecipazione a queste fiere, e vedo che hanno risultati interessanti e quindi benissimo, cioè si può fare assolutamente anche essendo piccoli. Il percorso di Antonio Gavazzeni parte dall'estero e dall'esperienza più che dai libri. Il mio percorso è che una volta terminati gli studi, ovvero mi sono diplomato in ragioneria, mi sono iscritto all'università, sono rimasto iscritto un mese, dopodiché all'età di 19 anni ho sentito la voglia di entrare in azienda, di lavorare al fianco di mio padre perché il lavoro mi intrigava molto, mi piaceva molto, ho fatto il servizio militare che allora c'era e di conseguenza ho fatto delle esperienze all'estero molto interessanti appunto per poter avere un percorso costruttivo concreto per poi entrare in azienda. Sono stato un anno a lavorare a Londra in un negozio del signor Armani, sono andato un altro anno a lavorare in una showroom a Tokyo ed è stata un'esperienza estremamente interessante anche quella. Sono andato un altro anno a New York a lavorare in un'altra showroom che noi avevamo ai tempi. Poi sono tornato, mi sono inserito in azienda, ho fatto di tutto, di più, ho fatto poi dei corsi parauniversitari per recuperare quello che non ho studiato, perché allora di voglia di studiare ne avevo gran poca. Oggi mi rendo conto che studiare è importante, tant'è vero che ancora oggi ogni tanto mio padre mi critica per quanto concerne il lavoro, poi dopo un po' lui dice: ma se penso cos'eri da ragazzino e cosa è successo oggi, è successo un vero miracolo, quindi sei bravo alla fine fra una cosa e l'altra. Oggi l'azienda ha un fatturato di 36 milioni di euro. La sede produttiva, gli uffici commerciali e l'ufficio stile sono ad Arcore, dove lavorano 120 persone. Lo showroom a Milano, la rete distributiva è attiva in Italia e sui mercati internazionali. All'incirca siamo 120 persone fra tutto e poi produciamo internamente, esternamente, ci avvaliamo di laboratori esterni che producono per noi in Italia, all'estero, a seconda delle esigenze commerciali per quanto concerne i prezzi. Ovviamente tutto quello che facciamo ovunque lo facciamo è sempre improntato sul massimo rispetto della qualità e del servizio, della competitività, assolutamente. Noi abbiamo una rete vendita abbastanza capillare, ovvero vendiamo in Italia attraverso il nostro showroom di Milano in via Tortona, molto bello, grande ed efficiente, più in alcune zone abbiamo degli agenti che lavorano per noi. E lo stesso all'estero, soprattutto nei paesi tipo Giappone, in Cina e altri, mi viene in mente Svizzera, Inghilterra e così via, abbiamo dei partner, chiamiamoli, distributori per noi delle nostre collezioni. Una collaborazione forte che prosegue con Giorgio Armani, produzione che va in tutto il mondo. E la crisi ha portato l'azienda a rivedere alcune scelte. Per quanto riguarda gli anni che stiamo vivendo, sicuramente sono anni difficili, in più in un contesto mondiale a livello economico, in più in Italia sembra che siamo specialisti e molto bravi nel renderli ancora più difficili, su tutti i punti di vista, soprattutto a livello politico, a livello generale, sia chiaro. Per quanto riguarda il resto, io sento che se le cose vengono fatte bene ci sono dei segnali di ripresa. Anche in Italia, dico, ci sono dei canali distributivi che magari anni fa non facevamo, oggi li facciamo e tutto sommato stanno iniziando a portare dei risultati estremamente interessanti. Sicuramente bisogna lavorare molto, stare attenti e darci dentro in tutto e per tutto. Tra gli obiettivi per il futuro, quello di sviluppare la presenza all'estero e di rafforzarla anche in Italia. Per quanto riguarda i nostri marchi, siamo sicuramente un 65% Italia e il resto estero. Però stiamo investendo molto nell'ambito sempre delle nostre possibilità per affrontare al meglio i mercati esteri e per poterli sviluppare in maniera capillare, soprattutto in Giappone, in Corea, in Russia, in Cina stiamo entrando abbastanza bene, devo dire, poi un po' in tutto il mondo in maniera non molto capillare, però siamo presenti un po' in tutto il mondo. Per quanto riguarda noi, il nostro obiettivo per quanto concerne i nostri marchi è quello di sviluppare il più possibile i mercati all'estero e poi nell'ambito sempre delle nostre possibilità cercare di arrivare a gestire, a controllare di più la nostra distribuzione, distribuire un pochino più direttamente.